ritornare ai squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come i tempi belli che Pinelli immortalò. Voglio rivedere la soffitta dove t'ho tenuto stretto stretto accanto a me. Stretto, stretto, accanto a me.